Terzo anello, ad alta voce. Il gatto pardo, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Introduzione di Boris Biancheri. Il gatto pardo è probabilmente il caso letterario più straordinario della storia italiana. Verso la fine degli anni 50, un aristocratico siciliano, Giuseppe Tomasi, principe di Lampedusa, si mette a scrivere un romanzo. In precedenza ha scritto qualche cosa, piccoli saggi, ma non è un letterato professionale e direi non è affatto noto nel mondo della cultura e delle lettere in generale. La scrittura del romanzo lo occupa per un paio d'anni, poi si ammala e muore. Il manoscritto di quel romanzo viene trovato fortuitamente dal lettore di una grande casa editrice italiana, la Feltrinelli. Era il lettore stesso, un letterato, Giorgio Bassani, uno dei grandi nomi della letteratura italiana di quegli anni. Ravvisa in quel manoscritto che gli è capitato casualmente per le mani un capolavoro, si mette alla ricerca di un autore che non sa neanche di chi si tratti, e quando finalmente trova l'indirizzo esatto, l'autore è già morto. Feltrinelli pubblicherà lo stesso quel romanzo, che esce nel dicembre del 1958, ed è immediatamente un capolavoro assoluto che viene riconosciuto con un successo di pubblico straordinario. Sono passati 50 anni e più da allora, e del Gatto Pardo in Italia sono stati venduti milioni di copie, in tutto il mondo ne sono state vendute decine di milioni, tradotto in 28 lingue, e quindi è ormai fra i grandi classici della letteratura italiana, uno dei più grandi libri probabilmente dello scorso secolo. Non è stato subito riconosciuto come tale, anzi una parte della critica letteraria lo ha abbastanza avversato, perché andava controcorrente rispetto a quella che era, diciamo, la vena narrativa di quegli anni, che era fortemente intrisa di politica. Il Gatto Pardo non è un libro politico in quel senso, è un libro storico, tratta degli avvenimenti successivi al sbarco dei garibaldini in Sicilia, il momento dell'unità d'Italia, ed è il racconto della fine di un mondo, della fine di un'epoca, della fine anche di un modo di vivere e del declino e della risorgenza di una famiglia. È una epopea storica, ma è anche una epopea individuale. Il suo carattere centrale, il principe di Salina, immortalato tra l'altro in un film di grandissimo successo di Luchino Visconti, girato qualche anno dopo da Burt Lancaster. Il principe di Salina è l'erede di un mondo che vede con un certo distacco e con molta ironia declinare il mondo che gli è caro, nel quale lui ha vissuto, e vede sorgerne un altro che in parte capisce, ma che poco condivide. Gli ascoltatori ritroveranno moltissimi termini, luoghi, frasi che sono diventate ormai parte del patrimonio linguistico lessicale italiano. Cambiare tutto perché niente cambi, o la stessa parola il gatto pardo, che indica i potenti di un tempo, quelli che in qualche modo si aggrappano alle vestigie di un passato che non c'è più. O quell'altra amara frase, noi eravamo i gattopardi, ora verranno le iene e gli sciacalli. Come vedete, molte frasi pessimistiche, ma il libro non è pessimistico, è un libro che apre anche sul futuro. Maggio 1860. Nunc et in ora mortis nostre. Amen. La recita quotidiana del rosario era finita. Durante mezz'ora la voce pacata del principe aveva ricordato i misteri dolorosi. Durante mezz'ora altre voci frammiste avevano tessuto un brusio ondeggiante sul quale si erano distaccati i fiori d'oro di parole inconsuete, amore, verginità, morte. E mentre durava quel brusio, il salone rococò sembrava aver mutato aspetto. Financo i pappagalli, che spiegavano le ali iridate sulla seta del parato, erano apparsi intimiditi. Perfino la Maddalena, fra le due finestre, era sembrata una penitente, anziché una bella biondona, svagata in chissà quali sogni, come la si vedeva sempre. Adesso, taciutasi la voce, tutto rientrava nell'ordine, nel disordine consueto. Dalla porta attraverso la quale erano usciti i servi, l'alano Bendicò, rattristato dalla propria esclusione, entrò e scodinzolò. Le donne si alzavano lentamente e l'oscillante regredire delle loro sottane lasciava poco a poco scoperte le nudità mitologiche che si disegnavano sul fondo latteo delle mattonelle. Rimase coperta soltanto un'Andromeda, cui la tonaca di padre Pirroni, attardato in sue orazioni supplementari, impedì per un bel po' di rivedere l'argenteo Perseo che, sorvolando i flutti, si affrettava al soccorso ed al bacio. Nell'affresco del soffitto si risvegliarono le divinità, le schiere di tritoni e di driadi che dai monti e dai mari, fra nuvole, lampone e ciclamino, si precipitavano verso una trasfigurata conca d'oro per esaltare la gloria di casa Salina. Apparvero di subito colme di tanta esultanza da trascurare le più semplici regole prospettiche, e gli dei maggiori, i principi fra gli dei, Giove folgorante, Marte accigliato, Venere languida, che avevano preceduto le turbe dei minori, sorreggevano di buon grado lo stemma azzurro col gatto pardo. Al di sotto di quell'Olimpo palermitano, anche i mortali di casa Salina discendevano in fretta giù dalle sfere mistiche. Le ragazze raggiustavano le pieghe delle vesti, scambiavano occhiate azzurrine e parole in gergo di educandato. Da più di un mese, dal giorno dei moti del 4 aprile, le avevano per prudenza fatte rientrare dal convento e rimpiangevano i dormitori a baldacchino e l'intimità collettiva del Salvatore. I ragazzini si accapigliavano di già per il possesso di una immagine di San Francesco di Paola. Il primogenito, l'erede, il duca Paolo, aveva già voglia di fumare e, timoroso di farlo in presenza dei genitori, andava palpando attraverso la tasca la paglia intrecciata del portasigari. Nel volto emaciato si affacciava una malinconia metafisica. La giornata era stata cattiva. Guiscardo, il sauro irlandese, gli era sembrato giù di vena. La prepotenza ansiosa della principessa fece cadere seccamente il rosario nella borsa trapunta di Jais, mentre gli occhi belli e maniaci sogguardavano i figli servi e il marito tiranno, verso il quale il corpo minuscolo si protendeva in una vana ansia di dominio amoroso. Lui, il principe, intanto si alzava. L'urto del suo peso da gigante faceva tremare l'impiantito, e nei suoi occhi chiarissimi si riflesse un attimo l'orgoglio di questa effimera conferma del proprio signoreggiare su uomini e fabbricati. Adesso posava lo smisurato messale rosso sulla seggiola che gli era stata dinanzi durante la recita del rosario, riponeva il fazzoletto sul quale aveva posato il ginocchio, e un po' di malumore intorbidò il suo sguardo quando rivide la macchiolina di caffè che fin dal mattino aveva ardito interrompere la vasta bianchezza del panciotto. Thank you. Benché il principe fosse grasso, era soltanto immenso e fortissimo. La sua testa sfiorava nelle case abitate dai comuni mortali il rosone inferiore dei lampadari. Le sue dita potevano accartocciare come carta velina le monete da un ducato, e fra Villa Salina e la bottega di un orefice era un frequente andirivieni per la riparazione di forchette e cucchiai che la sua contenuta ira a tavola gli faceva spesso piegare in cerchio. Quelle dita, d'altronde, sapevano anche essere di tocco delicatissimo nel maneggiare e carezzare, e di ciò si ricordava a proprio danno Maria Stella, la moglie. E le viti, le ghiere, i bottoni smerigliati dei telescopi, cannocchiali e cercatori di comete che lassù, in cima alla villa, affollavano il suo osservatorio privato, si mantenevano intatti sotto lo sfioramento leggero. I raggi del sole calante di quel pomeriggio di maggio accendevano il colorito roseo, il pelame color di miele del principe. Denunziavano essi l'origine tedesca di sua madre, di quella principessa Carolina, la cui alterigia aveva congelato 30 anni prima la corte sciattona delle due Sicilie. Ma nel sangue di lui fermentavano altre essenze germaniche ben più incomode per quell'aristocratico siciliano nell'anno 1860 di quanto potessero essere attraenti la pelle bianchissima ed i capelli biondi nell'ambiente di olivastri e di corvini. Un temperamento autoritario, una certa rigidità morale, una propensione alle idee astratte che nell'habitat molliccio della società palermitana si erano mutati in prepotenza capricciosa, perpetui scrupoli morali e disprezzo per i suoi parenti e amici che gli sembrava andassero alla deriva nel lento fiume pragmatistico siciliano. Primo ed ultimo di un casato che per secoli non aveva mai saputo fare neppure l'addizione delle proprie spese e la sottrazione dei propri debiti, possedeva forti e reali inclinazioni alle matematiche, aveva applicato queste all'astronomia e ne aveva tratto sufficienti riconoscimenti pubblici e gustosissime gioie private. Basti dire che in lui orgoglio e analisi matematica si erano a tal punto associati da dargli l'illusione che gli astri obbedissero ai suoi calcoli, come di fatto sembravano fare, e che i due pianetini che aveva scoperto, Salina e Svelto li aveva chiamati come il suo feudo e un sobbracco indimenticato, propagassero la fama della sua casa nelle sterili plaghe fra Marte e Giove, e che quindi gli affreschi della villa fossero stati più una profezia che un'adulazione. Sollecitato da una parte dall'orgoglio e dall'intellettualismo materno, dall'altra dalla sensualità e faciloneria del padre, il povero principe Fabrizio viveva in perpetuo scontento pur sotto il cipiglio zeusiano e stava a contemplare la rovina del proprio ceto e del proprio patrimonio senza avere nessuna attività ed ancora minor voglia di porvi riparo. Quella mezz'ora fra il rosario e la cena era uno dei momenti meno irritanti della giornata, ed egli ne pregustava ore prima la pur dubbia calma. Preceduto da un bendicò eccitatissimo, discese la breve scala che conduceva al giardino. Era un giardino per ciechi. La vista costantemente era offesa, ma l'odorato poteva trarre da esso un piacere forte, benché non delicato. Le rose polnero, le cui piantine aveva egli stesso acquistato a Parigi, si erano mutate in una sorta di cavoli color carne, osceni, ma che distillavano un denso aroma quasi turpe che nessun allevatore francese avrebbe osato sperare. Il principe se ne pose una sotto il naso e gli sembrò di odorare la coscia di una ballerina dell'opera. Bendicò, cui venne offerta pure, si ritrasse nauseato e si affrettò a cercare sensazioni più salubri fra il concime e certe lucertoluzze morte. Thank you. Per il principe, però, il giardino profumato fu causa di cupe associazioni di idee. Adesso qui c'è buon odore, ma un mese fa ricordava il ribrezzo che le zaffate dolciastre avevano diffuso in tutta la villa prima che ne venisse rimossa la causa. Il cadavere di un giovane soldato del 5° battaglione cacciatori, che è ferito nella zuffa di San Lorenzo contro le squadre dei ribelli, era venuto a morire solo sotto un albero di limone. Lo avevano trovato bocconi nel fitto trifoglio, il viso affondato nel sangue, nel vomito, le unghie confitte nella terra, coperto dai formiconi, e di sotto le bandoliere gli intestini violacei l'avevano formato pozzanghera. Era stato Russo e soprastante a rinvenire quella cosa spezzata, a rivoltarla, a nasconderne il volto col suo fazzolettone rosso, a ricacciare con un rametto le viscere dentro lo squarcio del ventre, a coprire poi la ferita con le falde verdi del cappottone, sputando continuamente per lo schifo, non proprio addosso ma assai vicino alla salma. Il tutto con preoccupante perizia. «Il fetore di queste carogne non cessa neppure quando sono morte», diceva. Era stato tutto quanto avesse commemorato quella morte derelitta. Quando i commilitoni imbambolati lo ebbero poi portato via, e sì, lo avevano trascinato per le spalle sino alla carretta, cosicché la stoppa del pupazzo era venuta fuori di nuovo, un De Profundis per l'anima dello sconosciuto venne aggiunto al rosario serale e non se ne parlò più, la coscienza delle donne di casa essendosi dichiarata soddisfatta. Don Fabrizio andò a grattar via un po' di lichene dai piedi della Flora e si mise a passeggiare su e giù. Il sole basso proiettava immane l'ombra sua sulle aiuole funeree. Del morto non si era parlato più, infatti, e dalla fin dei conti i soldati sono soldati appunto per morire in difesa del re. L'immagine di quel corpo sbudellato riappariva però spesso nei ricordi come per chiedere che gli si desse pace nel solo modo possibile al principe, superando e giustificando il suo estremo patire in una necessità generale, perché morire per qualcheduno per qualche cosa va bene, è nell'ordine. Occorre però sapere, o perlomeno essere certi, che qualcuno sappia per chi o perché si è morti. Questo chiedeva quella faccia deturpata. E appunto qui cominciava la nebbia. «Ma è morto per il re, caro Fabrizio, è chiaro», gli avrebbe risposto suo cognato Malvica se don Fabrizio lo avesse interrogato. Quel Malvica, scelto sempre come portavoce della folla degli amici, per il re, che rappresenta l'ordine, la continuità, la decenza, il diritto, l'onore, per il re, che solo difende la Chiesa, che solo impedisce il disfacimento della proprietà, meta ultima della setta. Parole bellissime queste che indicavano tutto quanto era caro al principe sino alle radici del cuore. Qualcosa però strideva ancora. Il re va bene, lo conosceva bene il re, almeno quello che era morto da poco. L'attuale non era che un seminarista vestito da generale e davvero non valeva molto. «Ma questo non è ragionare, Fabrizio», ribatteva Malvica. «Un singolo sovrano può non essere all'altezza, ma l'idea monarchica rimane lo stesso quella che è. Essa è svincolata dalle persone». Vero anche questo. Ma i re che incarnano un'idea non possono, non devono scendere per generazioni al di sotto di un certo livello, se no, caro cognato, anche l'idea patisce. Seduto su un banco, se ne stava inerte a contemplare le devastazioni che Bendicò operava nelle aiuole. «Buono, Bendicò, vieni qui». E la bestia accorreva, gli posava le froge terrose sulla mano, ansiosa di mostrargli che la balorda interruzione del bel lavoro compiuto gli veniva perdonata. Thank you.